chiudi gli occhi e attento al gradino. C'è per diventare migliore. Inizia a viaggiare con cuore. notte e di giorno la musica mi tira intorno. Siamo un gruppo di amici che ascolta solo musica.

cafe. Moglie, ma se ti vedo la voglia mi si toglie. la radio, vorrei salutare tutti i bivelli del forum tuo e gli amici miei di piazza che ci ho fatti iscrivere anche a loro sul forum, così ci possiamo tutti da ridere là sopra. Ciao, a presto ragazzi. Los 40 mi fomentas. Vai Fabiolas.